Ma la mia è un po' una provocazione, no? Non c'era lavoro in Italia, ci sono tanti disoccupati, adesso il lavoro c'è. Io non vedo come mai non parta qualcuno, non lo vedo. Io non vederlo è provocazione, perché capisco perché non lo si fa. Ma come mai non si organizzano le persone perché provvedano a fare tutti questi lavori, quello della ricostruzione, quello della prevenzione? Ci sarebbe lavoro per tutti, lavoro per gli studenti, lavoro per i lavoratori, lavoro per chi si vuole dare un'attività intellettuale, lavoro per chi si vuole dare un'attività manuale. Ecco, c'è questa situazione, ma si sta tranquilli così, si va avanti a questa maniera, non si dice niente. Io noto anche una cosa, per esempio, mio figlio fa parte della protezione civile, però anche lui e altri che appartengono alla protezione civile hanno notato questo. Ogni gruppo della protezione civile, di queste attività sociali, eccetera, a partire Comunione, Liberazione, Coop, eccetera, ognuno vuol farsi avanti per prendere, se ci sono soldi vuol prendere il suo, e quindi esclude altri. E c'è questa lotta all'interno di queste associazioni. Ognuno prenderà il suo per quei pochi soldi che lo Stato darà per partecipare a ricostruzioni, per modo di dire, attività di ricerca, per modo di dire. Ecco, io in sintesi era tutto questo che volevo dire. Vi lascio, ascolto per radio, buona continuazione alla trasmissione. Grazie Gavino, ti salutiamo. Grazie ancora. Vai. È aperto, sì. Diciamo che appunto era una questione, stavo prendendo parola per riportare perché non sapevo se il compagno avrebbe avuto modo e tempo di richiamarci, quindi volevo lanciare questa questione che magari è anche un po' l'occasione per fare dei confronti anche qui ripercorrendo la storia di quello che è stato l'intervento, diciamo, dal basso, comunque la canalizzazione, diversi modi in cui è stata organizzata la partecipazione in massa nelle operazioni di post terremoto in diverse occasioni che si sono date in Italia. Però poi, prima di passare a questa questione, su cui magari lascio la parola anche agli altri compagni per una valutazione di quello che è avvenuto, per esempio in occasione del terremoto di Amatrice, soprattutto ora per quello che so, da Roma a Roma è stata molto rapidamente da parte dei compagni organizzata un insieme di operazioni di aiuto, e su questo poi appunto interverranno altri dopo di me. Io volevo riconnettermi invece alla fine dell'intervento del compagno in risposta a questo post su Facebook, dove, quando io l'ho letto, sinceramente la percezione che ho avuto è che tante volte dobbiamo ricordarci che anche ascoltare e comprendere è un'attività, non soltanto parlare e documentarsi. Quindi la sensazione che ho avuto io è che quel commento fosse non solo una banalizzazione, ma anche veramente un modo di, appunto, di non recepire la dialettica che tante volte invece è insita nelle riflessioni che si tenta di fare da questi microfoni. E aggiungerei che questo questionario ci invita forse a riflettere anche su un'altra questione. Come diceva il geologo al telefono, la geologia, come tutte le scienze, non esiste nessuna scienza esatta, le scienze sono sempre in evoluzione. Un metodo integrativo di questo tipo, che oltretutto vede un ruolo importante delle popolazioni presenti sui territori, che meglio di chiunque altro possono conoscere e sviluppare, se magari appunto anche aiutate da un questionario come questo, che mette in evidenza alcuni dati da osservare al posto di altro, piuttosto che altro, cioè quali sono i dati più importanti da osservare, possono fornire del materiale di ineguagliabile valore per il progresso delle conoscenze scientifiche di chi poi ha bisogno di dati per valutare. Sicuramente non sono dati sostitutivi, da sostituire ad altri magari rilevati per via tecnologica, ma dati che possono integrare le informazioni che noi otteniamo in altro modo, con l'impiego di tecnologie. Quindi ecco, questo insomma un commento anche abbastanza banale, però che volevo dire. Ti passo la parola. E, no, rispetto alla questione, diciamo, che magari poi l'ascoltatore che è intervenuto l'ha anche, diciamo, intesa più largamente, diciamo, rispetto a all'intervento, alla solidarietà, all'attivazione nei territori, nelle città, rispetto a poi degli avvenimenti così tragici che purtroppo in questo periodo si stanno susseguendo, e poi, insomma, e c'è una ragione scientifica anche per questo, insomma, stanno susseguendo e bisognerà continuare sicuramente a monitorare e a capire come evitare insomma vittime, come evitare danni da possibili future scosse. Sicuramente è avvenuto una mobilitazione in senso di solidarietà da Roma, ma non solo, penso un po' da tutta Italia, sicuramente in primis sul sisma che ha colpito come epicentro principale Amatrice e altri paesi là della zona, sicuramente perché è stato anche il primo e ha anche prodotto più difficoltà, penso, nei primi momenti. Poi è chiaro che anche il sisma, come se ne è parlato questa mattina, che ha colpito sempre quelle zone negli ultimi giorni, insomma, ha provocato danni seri e provocherà difficoltà serie a migliaia di persone rispetto alle loro abitazioni. Però, insomma, a partire dall'esperienza delle brigate di solidarietà attiva, fino a tante altre esperienze, fino ai movimenti territoriali, come si è visto il movimento Notav della Valsusa, ma non solo, tante altre realtà solidali, centri sociali, comitati, hanno voluto stare vicino alle persone colpite dal sisma, raccogliendo materiali, andando proprio lì sul territorio a costruire anche delle basi, insomma, di organizzazione della vita per le persone lì del territorio, nel momento in cui appunto il sisma ti toglie la possibilità di stare nelle proprie case. Poi mi sembra il discorso che veniva fatto chiaramente dall'ascoltatore era anche più ampio, era anche sul ruolo che possono avere le persone, anche si parlava di disoccupati, si parlava anche di questioni più generali che penso vanno a toccare anche un piano politico anche più sostanziale, e qua si parla appunto poi le scelte che prendono i governi, di come vengono affrontate a livello più complessivo la sicurezza della vita delle persone, come vengono impiegate le persone rispetto ai bisogni appunto che ci sono, e questo è un tema complicato, un tema più grande su cui sicuramente sarebbe giusto e importante dare battaglia, insomma. Sicuramente penso che se ne discute anche dai microfoni di questa radio, e tanti anche movimenti e lotte lo dicono, no? Il sistema delle grandi opere, il sistema delle spese pubbliche portato avanti da governi di destra e di sinistra, messo in luce appunto dalle inchieste dei compagni, dalle lotte, e poi anche da numerose inchieste della magistratura. Pochi giorni fa, insomma, l'inchiesta che coinvolge l'opera del Terzo Valico, che coinvolge anche i progettisti del ponte sullo Stretto di Messina, ci parlano sicuramente di dove vanno i fondi, dove va l'interesse strategico di un paese, non è certo verso la sicurezza e la salvaguardia di zone come queste, ma va più, insomma, in altre direzioni. Poi, insomma, sono discorsi penso più ampi. Poi se gli altri compagni vogliono aggiungere qualcosa qua. Io sulla questione specifica della mobilitazione, io ricordo, lo trovate probabilmente anche sul sito, ne abbiamo fatto un redazionale specifico su quella che fu l'esperienza nostra di Radio Onda Rossa proprio nel 1980, quando Radio Onda Rossa partì con una carovana di compagni, con aiuti eccetera eccetera, per l'Irpinia. Si installò a Sant'Andrea di Conza e lì fece un centro di solidarietà proletaria, così era chiamato, Radio Onda Rossa, centro di solidarietà proletaria Radio Onda Rossa, dove si montò una mensa, si aiutò, si fece opera di informazione e controinformazione, e questo coinvolse più di 100 compagni e compagne che si alternavano in questa presenza lì per parecchi mesi, fino a quando ci fu l'intervento della polizia, delle forze dell'ordine, che con un'ordinanza prefettizia stabilirono che il centro doveva essere smobilitato e tutti quanti se ne dovevano andare, i compagni, perché sovversivi, perché sobillavano, sovvertivano l'ordine pubblico, eccetera eccetera. Quindi diciamo, abbiamo conoscenza sicuramente di questa esperienza, di questa necessità, di questi momenti particolari in cui una solidarietà diversa si può manifestare. Però qual è la differenza con l'oggi? Era questo, per rispondere anche a Gavino, in cui appresso sempre le sue domande, le sue sollecitazioni. È che nel 1980, quando i compagni andarono giù, a parte che non esisteva la protezione civile, c'era l'intervento classico dello Stato, era un intervento militare. Mandavano giù il genio per il genio militare, poi mandavano giù carabinieri, polizia, ma altri militari. Praticamente era una militarizzazione della zona che si preoccupava di controllare quello che succedeva nelle zone terremotate. Lì era molto estesa la zona, è stata una delle zone più estese in assoluto che c'è stata in Italia dal punto di vista dei terremoti. Questo era l'intervento dello Stato. Quando i compagni arrivarono giù c'erano situazioni, paesi in cui non era arrivato nessun tipo di soccorso, che i soccorsi all'epoca erano quelli della Croce Rossa, quelli che portavano i militari stessi, i soldati, insomma, eccetera eccetera, quindi dai sacchi di farina o altre cose, le coperte, era improvvisato, raffazzonato, era la logica ancora di uno Stato che non era attrezzato per queste cose. La protezione civile, con tutte le sue vicissitudini, fu creata dopo quel terremoto e oggi è diventata la macchina, l'organizzazione che tutti conosciamo, che non si può dire che non funzioni sotto tanti punti di vista, per non dire tutti evidentemente, perché funziona, perché è in grado di rispondere prontamente. Poi anche lì ci saranno e ci sono evidentemente delle pecche, però ormai questa macchina è oliata e quindi c'è la mancanza oggettiva di uno spazio e di una dimensione per manifestare questa solidarietà, perché anche se vai cerchi di arrivare in un luogo del genere in maniera organizzata, con un gruppo di persone in cui puoi metterci dall'elettricista, oggi questi problemi non ci stanno neanche più, che può intervenire, all'infermiere, a quello, a quell'altro e così via, perché all'epoca così si fece, andarono giù nel 1980 compagni infermieri, compagni dell'Enel, che insomma si dettero da fare anche portando la loro professionalità. Oggi tutto questo è superato dalla macchina della protezione civile, che è in grado di offrirle tutte queste cose. Quindi se tu ci vai devi comunque coordinarti con questa macchina e a quel punto accettarne non dico soltanto le regole, ma anche l'approccio metodologico a queste situazioni. Quindi non dico che uno sarebbe d'impaccio, ma in qualche modo devi coordinarti con qualcosa che prima non c'era e in cui la tua presenza faceva la differenza. Questo significa che non c'è più questo anelito, diciamo così, di solidarietà, di espressione di solidarietà verso queste persone soggette a terremoto. Io credo che ci sia, si manifesta in forme diverse, perché magari tra i tanti volontari accettati e inquadrati, tra virgolette, nelle varie organizzazioni di volontariato ci sono tantissimi compagni e compagne, indubbiamente. Ecco, credo che ci sia stato questo spostamento, questo cambiamento, dovuto a un cambiamento oggettivo, non dei terremoti, non delle situazioni disastrose che vive la gente, perché quelle si replicano con le stesse modalità, ma c'è stato un cambiamento oggettivo da parte delle istituzioni nell'affrontare queste emergenze, e questo, diciamo così, fa la differenza con cui ti ci devi confrontare, ecco. Allora, direi di fare uno stop anche musicale, anche perché è un po' che parliamo, e anche poi per magari lasciare questo tema del terremoto per andare a affrontarne almeno un altro paio. Ci interessava molto andare a parlare di Marocco con un compagno italo-marocchino che sta qui a Roma, perché insomma le proteste sembrano essere corpose adesso in queste ore, in questi giorni in Marocco, e poi eventualmente anche andare a raggiungere un compagno che sta in Spagna. Ci andiamo a sentire qualche brano musicale e poi rientriamo con un altro po' di informazione qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa.